Durante l'edizione 2024 del Festival Femminista di Fumetti e Illustrazione Bande Femme, venerdì 5 luglio, c'è stata la presentazione del fumetto di Elena Mistrello, tracciato Palestina. Racconto di viaggio in Cisgiordania, un'autoproduzione del FOA Boccaccio 003 di Monza in collaborazione con West Climbing Bank. Se volete cercare e trovare il volume che comunque benefit, il fumetto che è benefit per la Palestina, lo potete trovare anche su boccaccio.noblogs.org. Si tratta di attraversare anche solo per qualche giorno i territori palestinesi. Costituisce un'esperienza straordinaria e intensa, soprattutto se si ha modo di entrare in contatto diretto con i racconti e le traiettorie di vita di chi da sempre lotta per la libertà del suo popolo e contro la violenza dello Stato di Israele. Tracciato Palestina rappresenta il tentativo di condividere il segno profondo lasciato nella nostra vita da una settimana di incontri, esperienze collettive e drammatici eventi nel corso di una carovana solidale nella regione di Betlemme. Il ricavato della distribuzione di questa autoproduzione sarà devoluto a progetti di solidarietà con il popolo palestinese operanti all'interno del campo profugo. All'interno dei campi profughi di Aida e Deish a Betlemme. La presentazione del libro che vi riproponiamo a Radio Onda Rossa si è svolta venerdì 5 luglio all'interno del Festival Femminista di Fumetti e Illustrazioni Bande Femme, curato da Tuba, e che ha visto appunto l'incontro e la presentazione con l'autrice del fumetto Elena Mistrello. Buon ascolto. E grazie Elena per questo tempo insieme. E ve l'hanno già brevemente annunciato, adesso andiamo in Palestina. Andiamo in Palestina con Elena e con un viaggio collettivo, un viaggio di 10 giorni. E come dire, intanto credo sia importante dire che non è un viaggio che tutte e tutti possono fare. È un viaggio che neanche i palestinesi, gran parte dei palestinesi possono fare, quindi siamo fortunate oggi ad avere una restituzione così di un'esperienza collettiva. È una terra vicinissima alla Palestina, è una terra bagnata dal nostro stesso mare, è una terra che però viene raccontata come distante, lontana, per farcela dimenticare ogni giorno. Questo viaggio però ha una storia, è una storia fatta da un passaggio di testimone di tanti viaggi, quindi è proprio una stratificazione di tanti viaggi fatti negli anni ed è per questo che si chiama Tracciato. A questo tracciato ho partecipato anch'io, Elena parte con un progetto che è West Climbing Bank, che è un progetto diciamo suggerito dai palestinesi e messo in piedi attraverso una palestra popolare d'arrampicata, e io invece ero parte di quelle persone che andavano a giocare a pallone, a basket in Palestina perdendo ogni partita. Però ecco, quello che da cui mi piacerebbe iniziare è sapere come hai costruito Tracciato Palestina, quali sono i pezzi che hai raccolto a partire dal viaggio, però sappiamo che ci tieni parecchio a una restituzione anche di un processo di produzione collettiva, e quindi partirei proprio da questo. Grazie. Vabbè, grazie Giulia, ringrazio anch'io, in realtà sembrano sempre parole un po' che si devono dire, in realtà non è così, lo dico perché ci tengo particolarmente alla banda di Tuba e a questo festival, è sempre un momento speciale sia per, cioè, non so per chi ascolta, ma soprattutto per chi lo, cioè, insomma, per chi partecipa come autrice, è importante, ecco. E sì, allora magari faccio un passino indietro, nel senso che dico due cose su quello che è il progetto West Climbing Framing Bank, perché sì, questo fumetto nasce grazie a questa esperienza. Appunto, come diceva Giulia, è un progetto che ha già 5 anni, è un progetto di arrampicata in Cisgiordania e che nasce da una richiesta dei palestinesi, nel senso che Naji, il coordinatore del centro giovanile Leilac di Betlemme, Deisha, del campo profughi di Deisha nei dintorni di Betlemme, è il campo profughi più grosso di Betlemme, cercava qualcuno che portasse avanti sia la palestrina interna al centro giovanile, sia anche attività con i ragazzi e le ragazze del campo profughi outdoor, quindi andare a arrampicare proprio fuori. In particolare, quando si parla di arrampicata outdoor in Cisgiordania, si parla spesso di andare a arrampicare in quelle che sono territori dell'area C, quindi sia sotto l'autorità palestinese sia sotto il governo israeliano, che però poi sono anche quelli più a rischio espansione colonie, e quindi l'arrampicata in quel senso diventa uno strumento di presidio del territorio e di presenza nel territorio. Quindi ci sono, lo vivo, sto lì, mi attacco alla roccia in tutti i sensi ed evito che i coloni ci passino, almeno ci passano meno, perché poi ci passano lo stesso, però vedono internazionali, vedono movimento e si sta lì. Appunto, poi in realtà quando siamo stati noi non è successo, però è capitato molto spesso che invece i coloni passassero, staccassero le prese delle vie d'arrampicata, e quindi ecco, l'arrampicata in quel senso diventa davvero uno strumento di resistenza, come in realtà qualsiasi cosa utilizzano i palestinesi, che trasformano tutto in resistenza. E quindi magari uno pensa cosa può servire l'arrampicata in un campo profughi, ecco, questa è la risposta. Quindi in realtà Naji cercava appunto qualcuno e ha incontrato la palestra di arrampicata popolare di ZAM, che è un centro sociale di Milano Sud, e da lì è nata questa esperienza che è durata 5 anni. Parte del progetto, che sembra magari la minima parte, ma in realtà è una parte fondamentale, è quella proprio di tornare e restituire e raccontare, perché è davvero un pezzo fondamentale del progetto. E così è successo che sono venuti a raccontare il progetto anche al Boccaccio di Monza, che è un altro centro sociale appunto occupato, cioè lo spazio fisico adesso non c'è, però poi magari ci torneremo, però è un collettivo politico di Monza, e in quell'occasione noi avevamo la palestrina all'epoca e un gruppo di noi ha deciso di unirsi al viaggio. Poi appunto tu perdevi le partite, io invece ammetto che ho arrampicato pochissimo, sono pessima ad arrampicare, quindi lo racconti comunque. Esatto, però per chi non lo sapesse, ecco, però sì, ovviamente è il viaggio è un viaggio di solidarietà, è un viaggio politico che usa il pretesto dello sport, oddio, non come una roba minore, però è un pretesto poi per in realtà appunto portare solidarietà e fare rete. E quindi appunto nasce all'interno di questo contesto. Io ammetto che era un po' di tempo che non sentivo parlare così tanto di Palestina, nel senso che quando andavo al liceo, per esempio, quando solo all'accademia era si sentiva davvero tanto di più parlare, forse con Vittorio Arrigoni o insomma con varie vicende, era un po', come dire, dato un po' per scontato, era un po' vabbè, sì, c'è il conflitto lì, arabo-israeliano, c'è un po', anche come se ne parlava, era davvero dato per scontato, ecco, sì. Quindi ho preso la palla al balzo perché ci tenevo a conoscere con i miei occhi e a tornare a quelle che erano le robe che invece sentivo molto più forti negli anni precedenti. Sono 10 giorni che sul calendario sembrano pochi, ma lì ti vivi ogni secondo, ogni attimo come scoperta, e si è attraversate da tantissime emozioni. Di fatto tu racconti di schizzi provati a fissare sul momento mentre eri ancora in viaggio, e poi come esce fuori il fumetto, perché è davvero dettagliato, è una cosa molto precisa. Sì, giusto, è vero. Sì, in realtà poi durante il viaggio la questione degli schizzi e del raccogliere le testimonianze, perché un fattore molto importante è anche quello proprio di ascoltare associazioni, persone del campo profughi che ti raccontano la loro vita, e in alcune situazioni è davvero difficile raccogliere materiale così come magari siamo abituati a fare, e quindi in alcuni momenti si potevano fare schizzi, si potevano fare foto, in alcuni momenti non era neanche accessibile fare foto. Mi viene in mente il caso di Hebron, in cui era assolutamente vietato tirare fuori il cellulare, poi appunto magari ci torno anche su questo. E quindi il fatto, come dicevi prima, il fatto che fosse un viaggio collettivo è stato fondamentale, perché se non era all'interno di quel viaggio lì sarebbe stato un fumetto completamente diverso, nel senso che all'interno del fumetto ci entrano sia le sensazioni che abbiamo provato nelle giornate in cui siamo stati lì, e che erano giornate molto forti, molto intense, sia anche i racconti che abbiamo ascoltato così come sono, e c'è un po' come dire il desiderio di riportare quello che abbiamo ascoltato il più fedelmente possibile, e questa cosa qui è stata possibile anche poi quando sono tornata. In realtà c'è stato un periodo molto che io potevo farlo, nel senso che mi avevano licenziato da poco, tra l'altro, quindi avevo dei mesi liberi in cui potevo dedicarmi io personalmente alla cosa totalmente, ma un passaggio fondamentale è stato innanzitutto quello della raccolta degli appunti, che non avevo preso ovviamente solo io, ma nel caso di Tracciato Palestina Nicolas Garcia, che è un compagno che è venuto con noi, un compagno in generale, che aveva raccolto effettivamente gli appunti durante tutto il viaggio, quindi rivederli e cercare di non metterci troppi filtri, no? Cioè tipo in alcuni casi ci siamo trovati a dire: ah, qui hanno detto resilienza, teniamo resilienza, non usiamo resistenza perché ci piace di più. E questa cosa qui è stato un esercizio costante. Adesso ho fatto questo esempio qui, che è il primo che mi viene in mente, però in tanti casi era una roba per noi fondamentale, ecco, di non metterci troppo di noi. E un altro contributo fondamentale è stato invece quello di Elio Catania, che è sempre un nostro compagno di viaggio e compagno, che è un ricercatore storico e che ha fatto un po' l'editing generale del fumetto, insomma, di leggerlo, di capire alcuni punti, di rivederli insieme, ma anche proprio dove necessario aggiungere pezzi, perché non è un fumetto che ha la pretesa di raccontare la Palestina nella sua totalità, ma è un racconto di viaggio di un preciso momento storico, però in alcuni casi ci sembrava necessario aggiungere quei pezzetti lì. Questo, poi abbiamo utilizzato le foto di tutto il gruppo, ma le abbiamo utilizzate in un momento, cioè le ho utilizzate in questo caso perché ho disegnato io, però le abbiamo utilizzate in un secondo momento proprio perché ci fossero all'interno delle prospettive che non fossero di tipo giornalistico, ma che fossero più personali, cioè quindi che potessimo sfondare quelle foto lì che magari vediamo costantemente, che però non attraversiamo. Adesso non so se si è capito quello che intendevo dire. Sì, direi proprio di sì. Allora, l'hai detto anche tu, il fumetto risponde a una unica richiesta che ci viene fatta dalla Palestina, dalla popolazione, da chi resiste quotidianamente, oltre all'ovvietà, ovvero quella di lottare noi dove abitiamo, perché le cose si cambiano a partire dal contesto dove viviamo. Dalla Palestina ci viene chiesto di raccontare quello che vediamo con i nostri occhi e di non smettere mai di farlo, e quindi il fumetto diciamo che ha questo scopo e lo raggiunge pienamente. Il muro dell'apartheid, quante volte l'abbiamo sentito nominare, i checkpoint, le colonie, però se non le si vedono con i propri occhi è molto difficile capire qual è la struttura, qual è la struttura dell'oppressione che è dietro il progetto coloniale. E, tanto per fare riferimento al tempo che passa e un territorio che cambia. E, ho visto alcuni disegni del tuo fumetto in luoghi che ho attraversato, e quella casa che magari resisteva in un pezzo di terra nel tuo fumetto non c'è più, ma è talmente una ricostruzione fedele e reale che so che non è un errore. Stessa cosa il muro dell'apartheid in costruzione, che era oggetto di resistenze, proteste quotidiane, azioni da parte di un campo profughi, nel tuo fumetto l'ho visto costruito interamente. E uno dei personaggi presenti nel fumetto non è più libero, quindi non può più accompagnare solidali che vanno a conoscere la Palestina e si trova tuttora in carcere. Ecco, questo fumetto ha due vite, esce prima del 7 ottobre 2023 e poi sente la necessità di una seconda edizione. Se ci puoi spiegare un po' la vita del fumetto tornata dal viaggio, che percorso fa, che percorso hai fatto? Sì. Però mi attacco alla roba che hai detto prima, nel senso che Giulia diceva che nasce da un'esigenza dei palestinesi, cioè nel senso da una richiesta più che un'esigenza, scusate, perché effettivamente quando andavamo a fare gli incontri, per cui ascolti storie di repressione quotidiana e di colonialismo davvero pervasivo, dice adesso me ne torno a casa, è tutto ok per me, e quindi la domanda che ci veniva molto più spesso da fare era: ok, cosa possiamo fare con questo tuo racconto? E davvero la maggior parte delle volte ci veniva chiesto: andate, tornate, raccontatelo a più persone possibili, ai familiari, agli amici, cioè quindi da questo essere sì. Ambasciatrici della Palestina, sì. Questa è la richiesta che viene fatta continuamente. Un'altra cosa per cui cioè una cosa con cui ti scontri effettivamente nel fare questa faccenda qui è che di Palestina in realtà se ne parla tantissimo, e ci sono un sacco di documentari, fumetti, articoli. Banalmente, nel caso dei fumetti, c'è il notissimo Palestina di Gio Sacco. Io me lo sono riletta apposta per approcciarmi a questo fumetto, e quando mi sono resa conto che in alcuni casi, a proposito, tornando al caso di Hebron, la situazione non solo, come dicevi tu, era uguale ma era peggiorata, un po' il mio pensiero è stato quello che ok, finché c'è un popolo che lotta per la sua terra e per la sua libertà, vale la pena parlarne in mille forme, mille modi che abbiamo di continuare a parlarne. Quindi questa è stata un po' l'esigenza di fondo, ecco. E per quanto riguarda la vita del libro, a un certo punto sparisce, è introvabile il libro. Sì, perché ci chiamavano da diverse città: vi prego, Tuba, dateci questo libro. No, questa è solo la lentezza della distribuzione delle autoproduzioni. Perché vabbè, sì, poi magari appunto ci torniamo sul fatto che è un'autoproduzione, ma il fumetto esce effettivamente 2 settimane prima del 7 ottobre. Abbiamo fatto una prima presentazione a Milano, a Piano Terra, no, una prima in Boccaccio che poi è stato sgomberato il giorno dopo, e una invece a Piano Terra in compagnia di Mohamed Sabane, che comunque invito a conoscere per chi non lo conosce. È un fumettista palestinese, tra l'altro da poco tradotto in italiano qui con il suo fumetto che è Racconto Palestina. E niente, devo dire che all'inizio io c'erano anche, come dire, colleghi che mi dicevano: bah, magari non è il momento adesso di parlare di Palestina, non lo so, c'erano dubbi su questa cosa qui di quando fosse o meno il momento. Insomma, io pensavo che effettivamente l'attenzione ovviamente non fosse quella che è attualmente, che dovrebbe essere sempre 100 volte maggiore, però comunque ovviamente non mi aspettavo quello che è successo. E dopo 2 settimane appunto era il 7 ottobre, e ovviamente approcciarsi alle presentazioni che già avevamo fissato e a quelle che poi comunque evidentemente con l'interesse crescente arrivavano è stato complesso. Nel senso che è stato complesso emotivamente, penso che come quello che stiamo vivendo tutte in questo momento, che cioè lo è ancora adesso, ma ovviamente ci sono stati picchi e cose, però insomma, sia per una questione appunto umana di quello che è quello che stiamo passando, e sia appunto per tutte le volte trovare le parole giuste, la giusta sensibilità, il giusto tatto nel presentare questo fumetto, che ovviamente non stava parlando del genocidio in corso, parlava di un'esperienza precedente, però in questo senso è stata un po' quella la chiave, perché in alcune situazioni, perché abbiamo fatto presentazioni anche nelle scuole superiori, nelle biblioteche, in festival di fumetto, come dire, non politicizzati, quindi in varie situazioni, ecco, la chiave era un po' quella, nel senso che avevamo proprio lo strumento per raccontare un pezzetto del prima e un po' sfatare la classica narrazione dei media del fatto che è partito tutto dal 7 ottobre, quindi in questo senso è stato uno strumento importante sia da questo punto di vista, sia dal punto di vista che comunque girando tutta Italia e conoscendo realtà che da sempre si occupavano di Palestina, anche di creare rete e di, insomma, di conoscersi. Poi, come diceva Giulia prima, appunto c'era la questione del nostro compagno arrestato, quindi anche questo ha creato legame, ha fatto rete su quella che è la realtà anche dei prigionieri palestinesi, ma anche proprio del fatto che poi il fumetto è stato uno strumento per fare benefit per le associazioni di Daesh, appunto, e quindi ecco, è stato un po' questo. No, scusa, forse devo arrivare alle pagine in più. Se ti va, mi ero dimenticata. Se no lo lasciamo così, no, come incognita. Sì, sì. No, ci tengo perché sì, no, diceva appunto della seconda edizione, perché appunto abbiamo finito la prima edizione e per varie ragioni ho deciso in questo caso personalmente di aggiungere delle tavole in più, non tanto per spiegare niente, perché se non è una cosa che ho vissuto e che non ho studiato per anni, non, sinceramente non ne parlo, a meno che non c'è qualcuno che ne è studioso, però volevo aggiungere un pezzetto che fosse, cioè che riguardasse il periodo che stavamo vivendo, e l'unico pezzetto che potevo raccontare era quello che stavo vivendo da qua, quindi c'è da una parte una riflessione sul valore delle immagini e su quello che è stato l'utilizzo delle immagini da parte dei media per giustificare i bombardamenti e il genocidio, e quindi anche della presa di coscienza dell'importanza che hanno e della, cioè adesso chiedo scusa, adesso non ricordo il nome, ma abbiamo appena visto la mostra di Jana Trapulsi, e c'era un'illustrazione bellissima che parlava proprio della difficoltà dell'importanza del guardare, ma anche della difficoltà del non guardare e di quella roba lì che davvero continua ancora adesso e la condividiamo, credo, ed era un po' queste tavole qui erano un po' su quell'onda lì, su questa riflessione qua, però sull'importanza della testimonianza, ecco, che arriva da là, dai palestinesi, dalle palestinesi. Un altro pezzetto che ci tenevo ad aggiungere in queste tavole in più è quello della solidarietà internazionale, che è un altro pezzo che stiamo vivendo qui. E in questo caso ho fatto una chiacchiera con Leila dei Giovani Palestinesi, e l'abbiamo fatta a Natale del passato, e mi spiace non averla approfondita, perché poi vabbè, in realtà le tavole non è che potevo aggiungerne tantissime, però ha fatto un discorso molto, molto puntuale quando di questa cosa non se ne parlava molto, che era la repressione della solidarietà qui, e con appunto quello che stiamo vedendo con le leggi per reprimere, cioè in Germania, o con banalmente le cariche all'università, e poi quello che insomma arriva fino a noi, ecco, quindi portare questo pezzo per me era fondamentale, perché se la resistenza viene repressa in questo modo è perché serve, perché va fatta. Grazie che ci porti anche qua, dato che Roma anche ha avuto un educatore di una scuola francese, prima licenziato, poi sotto inchiesta, poi portato dentro un centro d'espulsione, al centro di una campagna di solidarietà solo perché ha preso parola rispetto alla resistenza palestinese, così come siamo in un paese dove tre palestinesi che partecipavano alle lotte nella propria terra si ritrovano in carcere in questo momento, come se fossero il regalo di questo paese ad Israele. Proprio domani si terrà un corteo a Roma per rivendicare la loro liberazione al fianco della Palestina, ovviamente, con appuntamento alle 4 in Piazza della Repubblica. Penso che vale la pena ricordarli questi appuntamenti in strada. Ma proseguiamo sul fumetto, ma torniamo a noi. Nel fumetto manca un disegno. Vi potrei lasciare con questa cosa tipo trova il disegno mancante, ma in realtà ci terrei a domandartelo il perché. Uno degli obiettivi del viaggio è riuscire a disegnare insieme un murales, discutendolo con la popolazione palestinese, con i compagni e le compagne. E il fumetto viene attraversato da una serie di domande: come si disegna, con chi lo facciamo, come verrà e via dicendo. Poi il murales viene ultimato e c'è un disegno di un muro che sarà sicuramente quello dove l'avete fatto, e subito dopo, il disegno dopo è di gente che voi che vi fate la doccia perché sarete stati ore e ore sotto il sole. Mi chiedevo, siccome è quasi una fotografia mancante, un qualcosa tipo questa cosa non la rappresento, perché hai fatto questa scelta? Ecco. È vero, manca, ed effettivamente l'ho scelto proprio che non ci fosse. Come diceva Giulia, questa cosa qui di fare il murale è nata mentre eravamo lì, nel senso che Nagi ci ha chiesto se avevamo voglia, sapendo che disegnavamo e che insomma facevamo anche murales, se avevamo voglia di fare il murales per i martiri per il cimitero dei martiri di Deisha. Come potete immaginare, non è stata una cosa semplice incontrare, perché insomma, come dire, chi disegna è abituato ad entrare in un argomento e conoscerne in parte, non sempre, però in parte medesimarsi, e quindi era piuttosto complesso. Adesso scusate, ho fatto un attimo di confusione, ma perché io tra l'altro di questa cosa qui ne avevo sentito parlare in un incontro in Boccaccio, nel senso che era venuta Samantha Comizzoli a farci questo incontro, dove tra l'altro ci parlava in maniera precisa e puntuale appunto dei martiri, anche solo, stiamo sempre parlando di Cisgiordania perché il viaggio è avvenuto lì, quindi mi limito a quello, ma solo per questo motivo. Però appunto martiri, ragazzi, soprattutto giovani e giovanissimi, che sono i primi a scontrarsi con l'esercito israeliano, e quindi i primi a, quando va bene, anche solo rimanere feriti, e quando va male appunto essere uccisi. Mi fa molta impressione, in realtà lo dico un po' anche per smorzare la cosa, perché io sono di Cinisello Balsamo, e a Cinisello Balsamo sono nata in via Martiri Palestinesi, e questo lo riporto un po' perché negli anni 70, quanto pare, dedicavano le vie, e mi è sempre una cosa che mi ha colpito, e comunque che ho sempre un po' lasciato lì, nel senso che non è che poi mi sono soffermata sulla cosa. Quindi vabbè, questo per tornare a Nagi, quando ce l'ha chiesto abbiamo fatto questo brainstorming con i ragazzi del centro, perché comunque nel centro ci sono pittori, ci sono insomma varie persone che si occupano di diverse cose, tra cui appunto anche persone che disegnano e dipingono. Tra l'altro, scusa, i campi profughi sono tutti disegnati, esatto, le mura, le sì. Questa cosa qua dei muri che parlano e che urlano è veramente molto forte, veramente molto d'impatto, cioè nel senso che attraversi, come dire, il confine immaginario, ed è proprio un muro parlante che davvero racconta la resistenza. E sì, quindi insomma la richiesta era davvero molto importante per noi, ed è stato importante mettersi in gioco e ascoltare quello che insomma veniva un po' fuori. È stato però davvero a maggior ragione intenso e complesso, perché il giorno prima che dovevamo fare il murales hanno appunto ucciso un ragazzo di 17 anni. Sembra una casualità, ma una casualità nel senso una roba eccezionale, letteralmente. In realtà è che è la quotidianità in West Bank, e questa roba qui ovviamente fa riflettere. E noi appunto poi dopo tirarsi in mezzo per disegnare, che poi avevamo deciso di disegnare questo corteo funebre in maniera molto stilizzata, perché comunque avevamo un giorno, poi dopo non c'erano più giorni, e tirarsi in mezzo è stato davvero importante per anche, come dire, rispondere ai giorni dopo del funerale, cioè nel senso anche stare lì, stare insieme. Il motivo però per cui non l'ho rappresentato è innanzitutto perché mi sono detta, beh, però un disegno di un disegno, no, non lo faccio un disegno di un disegno, in maniera molto banale. E l'altro è che forse non l'avrei neanche saputo esprimere, perché era una murata di 27 metri ed era esattamente in fronte alle colonie, ed era proprio un rosso e nero bello forte, in maniera tale che lo potessero leggere dalle colonie di fronte, e quindi forse non l'avrei neanche saputo rappresentare come si doveva. L'altra cosa è che appunto desideravo anche che le persone che leggessero il fumetto facessero quel famoso passo in più di andare, ah, ma questa cosa me la cerco, perché poi il fumetto è pieno di rimandi, tipo guarda che c'è questo video, guarda che c'è questa cosa, guarda che questa cosa l'hanno detta qua, l'hanno detta qua là. E questo era un pezzo così. E nella parte mancante, però, a parte noi che ci facciamo la doccia, c'è il signore che per tutto il giorno ci ha offerto wafer, caffè, manetta, un sacco di caffè, perché mi sembrava, cioè, come dire, davvero più solido di qualsiasi, non so come dire, cioè, ok, il murales e tutto quanto, però lui era davvero un albero piantato lì, una sicurezza, ecco. Grazie. E prima di salutarci, grazie davvero. Allora, in questi mesi, in questi tempi, abbiamo gruppi queer di tutto il mondo che stanno fermando i Pride in solidarietà con la Palestina. Le femministe hanno approfittato di qualsiasi mobilitazione per farsi sentire. Tutto quello che si diceva da tempo adesso sembra essere un eco davvero collettivo. E abbiamo avuto lavoratori e lavoratrici in sciopero anche globale, abbiamo visto porti bloccati. E la FOA Boccaccio, oltre ad avere la cosa che ha uno strumento in più per far innamorare tutte e tutti della Palestina, lotta nel quotidiano. Che sta succedendo a Monza, perché ogni giorno ce n'è una. Spiegateci, se ti va, spiegaci un po' chi siete e cosa sta succedendo, perché non vi date tregua, mi sembra. Sì, allora appunto, perché il fumetto è un'autoproduzione del Boccaccio, che è un collettivo politico di Monza, che, oddio, non ero pronta agli anni, però un sacco di anni, comunque 10 occupazioni tutte, però un sacco di anni, è una realtà molto forte a Monza, anche perché in realtà è l'unica da quel punto di vista politica. E vabbè, io poi in realtà ne faccio parte da un po' di anni, tanti comunque, ma non tutto il percorso, ecco, non c'ero agli albori, però posso dire che da quando ne faccio parte le autoproduzioni sono un pezzo importante, quindi l'idea di fare un'autoproduzione col Boccaccio è nata anche da questo, perché in realtà sia con vari documentari, appunto quello su Dax, il compagno antifascista ucciso a Milano, sia sulla scena punk hardcore, insomma, è uno strumento che utilizziamo all'interno della lotta più in generale. A Monza, ma penso come in tutta Italia, che un po' girando con le presentazioni abbiamo notato questa cosa qui, ovviamente c'è un forte desiderio di reprimere quelle che sono le occupazioni. Penso che è stata quella, sono di due giorni, quella di Firenze, sbaglio? Ieri. Ieri? ieri mattina mi pare. Quindi insomma gli sgomberi sono davvero all'ordine del giorno e niente, il Boccaccio si inserisce all'interno di questo desiderio a quanto pare comunque dall'alto di davvero reprimere le occupazioni. Quello che posso aggiungere appunto è che magari può essere utile che all'interno del, cioè che la retorica ovviamente è sempre quella della sicurezza, che la spacciano appunto come quella della sicurezza, per cui no, questa cosa non è sicura, questa no, ci sono sempre retoriche infime e niente, comunque siamo alle prese con questa cosa. Ovviamente cioè nel senso che questa cosa si inserisce all'interno di lotte più generali, perché io personalmente, ma perché parlo sempre per me, non è che parlo a nome di nessuno, credo che il creare spazi liberi dal mercato, dal capitalismo, da tutto quello che insomma dalla merda che ci circonda, è importante per poi portare avanti tutto quello che sono tutte le altre lotte. Cioè quindi non è la questione del fatto dello spazio meno, per cui è solo avere lo spazio, ma perché davvero fa parte di liberare spazi di aria all'interno delle città, che se ad un certo punto vengono a mancare poi diventa, cioè, insomma, mancano, ecco. L'ho detto un po' male, ma no, l'hai detto benissimo. La FOA Boccaccio è frizzantissima, quindi se vi capita davvero seguite quello che fanno, scrivono e come stanno in strada. Grazie Elena Mistrello, davvero. E acquistate questa autoproduzione perché è anche benefit.